24 mattino. 8, 18 minuti, 20 secondi, si staglia davanti a me il soave profilo di Oscar Giannino con una cravatta verde pisello che contrasta con... mi fa un gesto sceno, ma non dovrei riferirlo. Con il suo maglioncino scuro. E 8-18 minuti, importante discutere oggi perché tante cose di cui vale la pena di approfondire. Per esempio, lo sapevi questa cosa, Oscar, di Roma, dove 2000 abusivi rischiano di essere sfrattati all'ultimatum della Raggi? Occupanti abusivi di case per cui pagano affitti indebiti, ma hanno la Porsche. Sì, infatti ho visto anche, ci sono giornali come Il Messaggero in cui approfondiscono, in cui c'è chi possiede 18 immobili ma è il caso del comune, cioè, insomma, era ci sono casa dei casi. Di mia nonna, ci ero affezionata, e beh, quello, e oppure persone sono state chiamate che occupavano appunto lo stabile di un parente, hanno detto ma noi non sapevamo che dovevamo lasciarlo, e beh, è a loro insaputa. E beh, insomma, del resto abbiamo avuto ministri, ti ricordi, le case a loro insaputa. E quindi, come si vede anche in questo, però, Licio Gelli ha lasciato un testamento in cui spiega dove ha sepolto i lingotti d'oro nel giardino di Villa Wanda. Questo è bello, eh? Cioè, un giardino dove uno dice vado con la piccozza a scavare. Sì, ma immagino che la notizia mi lascia un po' perplesso. Perché uno... lingotti d'oro. Ma no, i lingotti d'oro non mi sorprendono. Quello che mi sorprende è che non è che li ha messi nel giardino di casa, non è che è andato chissà dove. Cioè. E dice ai parenti dove cercarli. È meglio della caccia al tesoro. Però il tesoro dell'Italia, secondo il ministro Martina, che salutiamo, buongiorno a Maurizio Martina. Buongiorno. È nella terra. Allora, oggi esce il suo libro, sulla foto di quarta c'è un ragazzo in maniche e camicia che racconta di essere nato in un ambiente totalmente agricolo, vero? Sì, sì, confermo. Per lei braccia rubate all'agricoltura o va a zappare la terra sono insulti. No, lo spiega nel libro, sono insulti che lui considera discriminatori e odiosi, vero? No, Dio, diciamo che ci sono stati anni in cui chi provava a ripartire dalla terra, in particolare magari a frequentare gli istituti tecnici agrari e scuole specializzate su questo settore, e ha considerato un po' di serie B. Adesso non è così, e questo a me sembra molto importante, anche perché ci sono ragazzi straordinari che fanno impresa agricola in questo territorio e sono, secondo me, delle eccellenze incredibili. Veramente è nato in una cascina? Sì, sì, io sono nato e cresciuto in una cascina, Cascina San Carlo, una piccola cascina nella bassa bergamasca dove ho sempre vissuto con i miei genitori. Ah, bene, e quindi ma posso fare? Non ho capito. Era ma nel destino di ma in cosa consiste? Ah, oh, ecco, perché non riesco a capire la domanda su come se non ci fossero nati nelle cascine. Sì, è normale, no? O no? Assolutamente. Beh, però nascere proprio per in casa per non un è nato. Una novità. Bene, e volevo chiederle, la prima parte del suo libro inizia con delle storie, no? Storie di ragazzi, sì. Storie di giovani che hanno riscoperto la terra, ma anche storie particolari. Ora, per dire, una cooperativa, lei cita Baricama, una cooperativa nata alle porte di Roma, quattro ragazzi africani che hanno iniziato a produrre yogurt nei pentoloni e adesso hanno un caseificio specializzato nello yogurt biologico. Assolutamente, Baricama, che in lingua berbera vuol dire resilienza, resistenza. Sono ragazzi che hanno iniziato a costruire questa cooperativa tanto tempo fa, e la cosa straordinaria per me interessante è che in realtà sono stati loro ad aiutare alcune aziende agricole del Lazio a sviluppare alcuni prodotti, alcuni percorsi di filiere produttive locali, invertendo sostanzialmente l'ordine delle cose che uno si immagina dovessero accadere quando arrivano ragazzi magari appunto da fuori dopo storie drammatiche, travagliate come le loro, e bisogna dare una mano. In realtà loro, facendo cooperativa agricola qui alle porte di Roma, hanno aiutato aziende agricole italiane. È una bellissima storia di come l'integrazione si può costruire nella cittadinanza e nell'impresa agricola. Io provo a raccontare questa storia per dire che c'è uno spazio incredibile di cittadinanza, di diritti, di doveri nelle esperienze anche legate alle imprese agricole, agroalimentari, alla cura del territorio, Mi ha colpito molto, lei c'è una parte in cui parla delle fake news sul cibo. Ah, sì. E io non lo sapevo, lei dice quella sull'olio tunisino è una colossale panzana, dice anche inventata dalla Lega, cavalcata dalla Lega, perché in realtà non è vero che c'è stata un'invasione, non è vero che l'olio... Beh, così, noi su questa vicenda dell'olio tunisino, ricorderete l'invasione dell'olio tunisino e della propaganda che in particolare Lega e 5 Stelle hanno utilizzato su questa partita, abbiamo misurato proprio tutto lo scarto tra la realtà e il virtuale, perché si gridò allo scandalo, all'invasione, quando in realtà a conti fatti, a numeri dati, quel contingente aggiuntivo di olio tunisino che è arrivato in Europa in virtù di una scelta di cooperazione con quel paese che sappiamo tutti essere delicatissimo dal punto di vista geopolitico e della sicurezza, beh, in realtà quel contingente è stato utilizzato, se non ricordo male, per un quinto del suo potenziale, senza stravolgere in alcun modo né il mercato europeo né la dinamica dei produttori europei. Semmai c'è da chiedersi come l'Europa può fare un lavoro diverso anche sul fronte della cooperazione senza tornare a questi strumenti inefficaci, ma noi abbiamo proprio misurato, toccato con mano la distanza colossale tra una certa propaganda e una, come dire, false notizie che poi girano soprattutto sui social, nel web, e la realtà di alcuni processi. Però vede, sono posso anche fare una domanda note... a proposito di false notizie? Cioè, nel senso che, domanda, ministro, per me è incomprensibile, ma evidentemente sono io che non capisco. A proposito di false notizie, l'Italia in Europa si caratterizza con una unione politica trasversale e di consenti mostri agli osservatori per adottare sugli OGM in agricoltura una linea che ha distrutto la nostra ricerca, che era molto avanzata in materia, come sapeva, e poi è una linea sulla quale ci becchiamo le condanne anche della Corte europea, cioè noi prendiamo il principio di precauzione come se fosse assodato che gli OGM sono un rischio, col risultato che poi, come sa meglio di me, ne importiamo i mangimi che sono fatti con gli OGM, quindi è veramente per me un punto interrogativo. Mi spiega perché l'Italia continua ad avere questa posizione, che è un danno per la nostra ricerca scientifica e per i nostri fabbisogni che naturalmente rimediamo con l'estero? Grazie per la domanda, perché questo è un tema cruciale per me e mi piacerebbe discuterne in maniera molto approfondita. Noi non facciamo altro che quello che la stragrande maggioranza dei paesi europei ha deciso quando, sulla base anche della regolamentazione europea, si è deciso, demandato agli Stati membri sostanzialmente corretto, la possibilità di legiferare su questo punto. Io dico che per scelta di politica agricola e ambientale noi decidiamo di non coltivare OGM, anche perché sostanzialmente gli OGM oggi sono mais e soia. Noi non siamo, non saremo mai grandi produttori di mais e soia, e abbiamo una composizione territoriale, morfologica, geografica, orografica, di estrema delicatezza. Cioè, da noi coltivare in maniera promiscua colture OGM, colture non OGM, è molto più complicato che altrove. Noi non che abbiamo in America, non ci sono le zone distese, di sguardo. Ma nemmeno le grandi distese spagnole. Non a caso solo la Spagna in Europa coltiva sostanzialmente consistenti quantità OGM. Io preferisco distinguere, provare a lavorare sulla distintività delle nostre produzioni di qualità, che sono produzioni oggettivamente di nicchia, e non rischiare l'omologazione di due produzioni come mais e soia, che obiettivamente comunque noi non potremmo produrre in quantità significative. Aggiungo anche che questa discussione, io capisco il punto di Giannini sulla ricerca, vorrei dire a Giannini che sono disponibile a ragionare e a dimostrare di come in realtà l'Italia può posizionare anche la sua ricerca agricola, agroalimentare, su altre frontiere. Le faccio un esempio molto concreto: qualche settimana fa, qualche mese fa, l'Università di Udine, al netto di questa discussione un po' vecchiotta tra OGM sì e OGM no, ha ad esempio è riuscita a chiudere la ricerca su alcuni vitigni resistenti sostanzialmente aprendo una nuova fase della viticoltura mondiale. Con alcuni ministro, la faccio riflettere. Ci sono delle nuove frontiere, scusi, finisco, perché è veramente un punto cruciale. Ci sono alcune nuove frontiere anche sulla ricerca. Non spetta al politico decidere la ricerca cosa deve fare. Questo è un punto sacro. E rispetto a questo, lei mi dice che lei decide cosa si apre e cosa si chiude. Per me, io che ho un rispetto assoluto per lei, e naturalmente so che nel metterla così sto usando un esempio paradossale, lei non è affatto un politico che decide per decreto cosa si fa ricerca e cosa meno, ma però per capire il principio di cui stiamo parlando, avevamo una ricerca che aveva, e lei lo sa, in molte filiere dell'innovazione e dell'ibridazione, che non sono un problema per la salute, come è arrivato alla gente, perché si ibridano i semi da che esistono nei millenni. Ma detto tutto questo, noi avevamo una ricerca le cui conseguenze, applicazione e trasferimento tecnologici andavano direttamente alle grandi filiere estere. Era un problema di proprietà intellettuale, di talento dei nostri ricercatori. L'abbiamo smantellata per decisione della politica. E questa cosa qua, ci sono le testimonianze di fiori di trasmissioni fatte da reporter. Questa roba qui, e ho concluso, è una cosa che non si può sentire un politico che dice: beh, voi farete altro, perché quel politico è una minaccia per l'idea della scienza. Ma chi dovrebbe decidere se non la politica? La ricerca scientifica la decidono i politici, Luca, ma in che paese? Nei paesi autoritari. Il principio della ricerca scientifica è andare avanti sulla peer review con non si fa solo ciò che viene dimostrato o che non sta in piedi o che produce danni in questa materia. Posso dire questo, che il laboratorio si può fare tutto. Il punto vero è la ricerca in campo. Esatto, questo riguarda la In secondo luogo, io ho una responsabilità dal punto di vista proprio dell'interesse pubblico, quello di tutelare un territorio e di provare a costruire delle compatibilità. Le dico di più, accetto la scommessa di costruire un progetto più avanzato anche sul fronte della ricerca. Se le posso dire, poi non c'è tempo, ma noi abbiamo una grande questione in Europa, che è quella di convincere l'Europa a distinguere giuridicamente la transgenesi, la vecchia formula della transgenesi OGM per come l'abbiamo conosciuta negli anni 70 e 80, dalle nuove frontiere della ricerca genetica sostenibile. Se dico genome editing, se dico di altre tecnologie a disposizione già oggi della scienza per fare ricerca genetica più compatibile, io ci sto. Tant'è vero. Comunque, che ministro, lei sa che alla Corte europea perdiamo, perché chi in Italia dice quello che mi impone la legge è un eccesso, la Corte europea dà ragione a chi impone. Per il momento la battaglia italiana è una battaglia isolata e che ha creato danni. No, ma non è così. Davvero, non è così. Le basti pensare che siamo capofila con l'Olanda. Quindi non con, vero, con l'Olanda, che non, vero, con l'Olanda, che non vero. Fa ricerca. Siamo capofila con l'Olanda della richiesta a Bruxelles di definire una volta per tutte giuridicamente in maniera differente, come accade negli Stati Uniti. Queste nuove frontiere di ricerca dalla vecchia transgenesi. Verissimo. Questa per me è la frontiera. Verissimo. Se si arriva lì, io ci sto. Va bene. Perché allora, penso che quelle tecniche garantiscono più sostenibilità. Almeno abbiamo provato a spiegare ai nostri ascoltatori appunto la questione. Allora, solo un attimo per la pubblicità e poi vorrei chiedere a Martina di raccontare la storia di Carlo Maria Recchia, che parte con 40 semi di mais nero e arriva ad avere 750.000 piante. Una storia italiana. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Allora, rieccoci in diretta con il ministro Martina, il suo libro Dalla Terra all'Italia, Mondadori, storie dal futuro del paese. È uno scenario che racconta Martina: negli ultimi 60 anni l'Italia ha perso 5 milioni di terre coltivabili, pensate, passando da 18 a 13 milioni. Però le tante storie che racconta sono anche un segnale di speranza. Allora mi incuriosiva questa di un ragazzo che in quarta superiore ordina 40 semi di mais nero e poi fonda un'azienda di grande successo. Sì, è una delle storie che raccontiamo proprio per dimostrare che c'è futuro nell'esperienza agricola agroalimentare italiana. La storia di Carlo Maria Recchia è straordinaria perché per passione cerca questi 40 semi di mais nero, li trova attraverso la banca del germoplasma e riesce a iniziare questa coltivazione, sviluppa questo lavoro sul mais corvino, che è un mais molto particolare perché ha il doppio delle proteine, il 20% in meno di carboidrati, e oggi si ritrova un'azienda che, come hai detto bene tu, coltiva praticamente ormai 750.000 piante, nel dato del 2016, e sviluppa un lavoro su birra artigianale, succhi, farine, farine per polente, per il pane, per la pasta, per i biscotti, straordinaria. Se andate sul suo sito vedete quanto è potente questa esperienza di impresa che sta nei territori e ha praticamente lo sguardo sul mondo, perché riesce a lavorare anche oltre confine, e ce ne sono tante di storie così. Ida, una ventenne che, esatto, che produce insalate ecologiche per McDonald's, biologiche anzi, ma la domanda è se tanti giovani riescono a farcela, perché questa è l'idea leggendo le storie del libro, perché poi il fenomeno di abbandono sembra ha questi tratti così epocali? Perché in particolare nell'esperienza agricola italiana ed europea non c'è alcun dubbio che si fa ancora tanta fatica. Noi abbiamo una grande questione davanti, che è quella dell'equilibrio tra costi e ricavi di queste attività, e non è un fatto nuovo, ma oggi più che mai abbiamo un tema gigantesco, che è quello di trovare degli strumenti e costruire un lavoro che rimette in equilibrio spesso tante di queste filiere che in equilibrio non sono, perché i costi sono più dei ricavi, e perché in generale la dinamica del mercato, la crisi, la volatilità dei prezzi mette in particolare queste esperienze troppo spesso nell'angolo. Allora c'è tutto un lavoro da fare, ad esempio sulla organizzazione della produzione, sulla costruzione di strumenti che associno questi produttori e li facciano lavorare meglio insieme. C'è un lavoro da fare per tutelarli nei rischi. Abbiamo una grande questione: noi non possiamo più chiamare il cambiamento climatico emergenza, perché il cambiamento climatico è un fatto, in particolare per l'agricoltura. Noi, pensate un po' ai mesi scorsi, abbiamo avuto siccità in Lombardia e straordinarie nevicate in Puglia. Non è più l'eccezionalità, un'ultima... potrebbe diventare la norma, e quindi dobbiamo lavorare anche su queste partite. Un'ultima domanda: lei nel libro gioisce giustamente per il fatto che i grandi colossi rimuovono i marchi falsi, il parmesan, la mozzarella dai loro scaffali virtuali. Che cosa pensa di questo sciopero del Black Friday che oggi anima Amazon? Beh, c'è da capire bene le ragioni di questa protesta. Ho letto che c'è una richiesta forte e pressante dei lavoratori di costruire un contratto integrativo. In particolare, se ho capito bene leggendo le informazioni sulla piattaforma di Piacenza, penso che anche questa vicenda ci mette di fronte il grande tema, diciamo, di un rapporto nuovo da costruire anche nella rappresentanza, anche nella tutela degli interessi e dei diritti tra grandi aziende globali e poi lavoro locale, e quindi bisogna seguirla con attenzione, perché è una spia rivelatrice di una dinamica che non sarà certo limitata a questa vicenda di Amazon. Senta Martina, le faccio una sola domanda: vista le elezioni, la politica, dei rapporti, del tentativo di tessere un'alleanza con chi è uscito, perché comunque la direzione del partito Renzi l'ha visto impegnato così, le chiedo solo questo: si mette nei panni di chi è uscito, ha saputo del tentativo di Fassino, ha sentito Fassino in questi giorni, e poi si trova oggi Repubblica, apre a pagina 11 e c'è una pagina intera, i conti dei renziani, ma tanto prenderanno solo 18 deputati, Rosato spiega il suo coefficiente per la legge elettorale, con 3,3 eletti ogni 1%, dunque dove vogliono andare, sto leggendo testualmente la pagina di Repubblica, insomma, guardi, mi pare di capire che no, le cose stanno così. Io sto al merito del tentativo che con convinzione noi abbiamo fatto e stiamo facendo anche in queste ore, di provare a lavorare su alcuni contenuti nuovi per la prossima legislatura, che ci aiutino a costruire un'alleanza la più larga possibile. Stiamo al merito, io credo che non ci siano ragioni per non provare a fare questo lavoro. Dopodiché non posso nemmeno accettare quello che ho ascoltato in queste ore, e cioè siamo fuori tempo massimo, tanto noi comunque andiamo da soli, io credo che tutte queste dichiarazioni non ci aiutino, che in realtà ci sia bisogno ancora di lavorare su un terreno di unità, nella pluralità, perché nessuno qui chiede di rinunciare ad alcune idee fondamentali, ma ci sarebbero le condizioni, a mio giudizio, per far tutti un passo avanti, anziché rimanere fermi. Benissimo. Bene, grazie ministro, ci sentiamo presto, grazie. Buongiorno e buon lavoro, auguri per il libro, Giovanni da Padova. Ecco, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti, sono un imprenditore del settore agroalimentare, mi dispiace che il ministro non ci sia perché era proprio un'osservazione sugli OGM, io sono d'accordo con Giannino, oggi la ricerca è fondamentale, ci stanno bloccando la possibilità di crescere e da 10-15 anni io con quello che dice il ministro può essere anche giusto, ma non è lui che deve bloccare questo. Fateci fare ricerca, fateci investire in questo segmento e poi vedremo quali sono i risultati. Non si può a priori che ogni politico, ogni ministro dell'agricoltura non prende in mano questo tema e dalla loro visione blocchi questa possibilità di ricerca e di sviluppo su un prodotto che è lo sfamare i consumatori, lo sfamare il mondo, quindi la coltivazione. Non è vero quello che dice che ci possono essere dei problemi con altre coltivazioni, perché in Friuli Venezia Giulia ci sono già degli agricoltori, io li chiamo rivoluzionari, che stanno facendo delle coltivazioni con semi OGM, il ministro questo lo sa. Quindi che il politico faccia il politico e che ci siano dei ricercatori, abbiamo dei fiori dell'università che portino avanti questo segmento, perché noi imprenditori, e non siamo agricoli, imprenditori, ci crediamo per le nostre materie prime, abbiamo bisogno di questo. Quindi per piacere il politico faccia il politico e dia in mano a dei ricercatori universitari questo tema, perché loro sanno effettivamente qual è, non è giusto o sbagliato, perché poi chi la vede da una parte può vederla dall'altra parte, non è giusto che un politico ci blocchi questa possibilità qua. Allora, grazie. Abbiamo una ricercatrice anche, vedi? Sentiamola. Paola da Torino. Sì, Laura, salve, Laura. Buongiorno. Sì, sono Laura, sono una ricercatrice del CNR. Ma mi ricollego all'intervento precedente. La questione è che sia il genome editing che la transgenesi sono degli strumenti. Esatto. Sono dei tool, sono esatto. Delle tecnologie esatto. A disposizione. Non sono degli ambiti di ricerca. Esattamente. Quindi la politica ha il dovere e il diritto di individuare degli ambiti di ricerca, perché deve prendersi la responsabilità di dire il paese deve investire più sull'aerospazio che sull'agroalimentare. Esatto. Ed è giusto, no? Ci sono delle specificità. Però non puoi venire a dire al ricercatore tu per arrivare a quello scopo, applauso. No? Devi applauso. Usare quella provetta oppure no. Applauso. Usare. Questo non ha senso. Applauso, è una non contraddizione senso. Di questa posizione italiana incomprensibile e ideologica. Questa è la mia opinione. E dopodiché prendo atto del fatto che la politica trasversalmente, come su questo, le pensioni, il deficit, ormai la politica trasversale è tutta uguale in Italia, tutti condividano questa impostazione, che resta un'eccezione nella comunità scientifica mondiale, prima che nella politica, una decisione di politica agricola, la decisione di politica agricola la penso come lei, possono essere diverse, delle priorità dei settori, d'accordo, ma dal punto di vista della ricerca scientifica no. Saremo minoritari, ma viva viva che i ricercatori italiani che continuano a sottolineare, scusi, un conto è un ambito generale, altro conto è uno strumento di ricerca, e lei mi viene a dire che strumenti di ricerca sono banditi politicamente, e mi viene a dire però se usate quello io sono d'accordo, e in base, con che titolo? È un problema di fondo, perché stiamo parlando delle coordinate generali di che cosa? In un paese aperto e con la scienza che è il banco di prova di che cos'è la libertà comprovata dai fatti, non il relativismo delle opinioni comprovate dai test sperimentali, questa è la ricerca scientifica, ecco, la politica che slitta e diventa una autorità aristotelica in termini di ricerca scientifica a me pone un grosso problema, perché significa allarme rosso. Ma se la politica vince le elezioni proponendo la libertà di sperimentazione, si farà la libertà di sperimentazione. È un paese malato, cioè quello in cui la scienza decide. Viene messa sotto i piedi ogni giorno da politici ma che tu chiacchierano non la pensi, libertà. Non pensi non che penso, nel penso paese che sia un allarme e che noi dobbiamo, il nostro mestiere, scusami, è non fare passare. Scusami, non urlare. Non pensi non sto che faccio urlando. Una domanda? Non lo penso, penso il contrario. Ma non pensi che ci sia un consenso intorno alle scelte di Alemanno? Non mi interessa un consenso malato e sbagliato, l'idea che il politico venga in radio e in televisione a dire io so cosa la scienza deve fare. Se convince la gente che lui sta tutelando la salute pubblica facendo così, è il principio di una politica autoritaria che io ho il dovere di combattere. La sinistra e la destra hanno avuto la stessa linea su questo. Perché sbagliano entrambi. Vuole rompere, può candidarsi con quel progetto. Non sono le elezioni il terreno nel quale Luca si decide la ricerca scientifica, altrimenti ci rassegniamo a un paese in cui, siccome tanti pensano che i vaccini siano un'oscena campagna internazionale dello stato imperialista delle multinazionali, ci troveremo a decidere per voto elettorale che tipo di principi attivi adottare nei farmaci. Quel paese è la barbarie. Noi su questo dobbiamo avere le idee chiare, Luca. Non è il panpoliticismo che decide che cosa, quali sono i risultati della ricerca scientifica, ma quali sono gli ambiti in cui condurla. La politica non è un demone, è il luogo della sintesi fra interessi contrapposti. La politica non c'entra niente con pubblicità. La ricerca scientifica. Mattino. 8:48 minuti, si è infuocato Oscar e la sua passione civile sul tema degli OGM. Danilo da Pavia invece vuole intervenire sullo sciopero del Black Friday. Buongiorno. Buongiorno, come sapete i dipendenti di Amazon Piacenza chiedono più garanzie dal punto di vista fisico-sanitario. Ecco, cosa vuol dire Danilo? Io voglio intervenire soprattutto sul discorso che un principio, non può essere che quando la società va male è colpa dei dipendenti e quando va bene è merito dei manager. Insomma, è giusto la contrattazione del secondo livello che dice, ok, io ho una base, la società fa degli utili, sì, questi utili di chi è il merito? Dei manager sicuramente che hanno fatto le scelte, ma anche dei dipendenti che hanno seguito quelle scelte, che hanno messo il loro impegno e che hanno raggiunto quegli obiettivi. Invece in Italia come funziona? Quando la società va male, i primi a pagarne, cosa si fa? Non abbiamo fatto utili, tagliamo il personale. Quando invece va bene, i premi arrivano ai manager. E qui è il sindacato che deve lavorare su questo, deve fare un contratto base che sia onesto, e poi dire, ok, però se la società fa 1 miliardo di utile, è giusto che anche i dipendenti abbiano il loro bonus. E secondo me questa battaglia è giusta. Io credo che su questo sia d'accordo anche Oscar. Sentiamo, io condivido al 100%. Assolutamente, io dico solo, mettendomi nei panni dei sindacati, che concentrare il fuoco dell'inizio delle ostilità sindacali su un principio giusto, perché io condivido quello che è la base della richiesta. Io poi sono per la contrattazione decentrata, che serve proprio per alzare la compartecipazione dell'interesse, della produttività, visto che siamo indietro sulla produttività, proprio con questa modalità. Dico solo che se mi metto nei panni dei rappresentanti, dei lavoratori del centro Amazon di Piacenza, concentrarla nel giorno in cui c'è il picco della domanda dei clienti, da una parte può sembrare bene, massimizziamo l'effetto sulla società, ma dall'altra, come strategia pubblica, è un boomerang, perché proprio nel momento del picco tu apparirai agli occhi del maggior numero di clienti delusi in uno dei giorni clou in cui loro si affidano a questo strumento di consegna, come chi ha torto, perché comunque gli attraversi la strada e gli impedisci la realizzazione di quello che volevano ottenere. Ecco, io ho dei dubbi dal punto di vista che questa sia la strategia giusta, proprio per ottenere quello che chiedono i lavoratori all'Amazon Piacenza, perché a quel punto tu fai apparire, dai un vantaggio ovviamente all'azienda di fronte ai clienti, e tu ti metti nella condizione di essere quello che, ma guarda un po', adesso dovevi fare la tua battaglia. Ecco, questa è la mia osservazione. Achille da Verona, sull'agricoltura di nuovo. Sì, pronto, buongiorno. Niente, sì. Io velocemente volevo solo, da persona del settore, sono stato anche vicepresidente Confagricoltura Giovani qui a Verona, un'azienda abbastanza grande, volevo parlare della realtà dell'agricoltura in due parole. Mi dispiace non aver potuto parlare col ministro, ma almeno per dirgli vergogna, nel senso che se dobbiamo parlare dei problemi, non dobbiamo scrivere libri sulle persone, che per carità sono cose ottime, che riesce a tirar fuori da un seme magico le cose magiche, però dobbiamo parlare anche dell'agricoltura normale, quella che manda avanti il paese, quella con cui la gente mangia normalmente, da chi fa il mais normale per le bestie. Parlando di bestie, ricordiamoci, abbiamo in mente chi rovina la politica, il concetto è proprio questo, sono i politici, chi rovina l'agricoltura sono i politici. Noi ci ricordiamo, in Italia è praticamente morto un settore, quello dell'allevamento, possiamo fare i nomi, ricordiamoci di Pecoraro Scanio, che ha fatto outing in Europa nel momento in cui doveva difendere il problema della mucca pazza, dicendo che era una cosa che non c'entra niente, perché è solo sulle mucche vecchie, non sulla carne che si mangia normalmente, che non raggiunge l'anno e mezzo. Cioè, ma parliamo del glifosato oggi, va bene? Cioè, il glifosato oggi, io penso alla trasmissione di Report, dove la gente, cioè, dove non c'è stato contraddittorio, dove sembra quasi che qualsiasi cosa faccia l'agricoltura sia un male per l'ambiente. Ecco, questo è il problema dell'agricoltura, voglio dire, i politici, assolutamente la nostra politica, e questo ambiente che è in mano, chiamiamolo ai verdi, non lo so, ma qualsiasi cosa è agricoltura è male. Cioè, ricordiamoci che il glifosato... Ma i verdi non esistono più. Ok, va bene, non ci saranno più i verdi, le do ragione, esistono più. Come non esistono più i comunisti. Penso. Naturalmente, però io le sto dicendo. No, diciamo che l'eccesso del principio di precauzione è diventato trasversale, il politico italiano o non ci capisce niente e si adegua, o se ci capisce condivide che bisogna avere l'eccesso di precauzione, per cui naturalmente ogni tipo di intervento industriale, chimico eccetera viene spacciato e dato in pasto a una informazione compiacente, anche qua molti ignoranti e molti ideologici che vedono in questa impostazione la maniera per combattere la grande impresa, il capitalismo, eccetera, eccetera. Ohimè, è così, Luca. Lo so che tu non sei d'accordo, però noi, in minoranza, noi pensiamo che sia proprio così. Io penso che sia giusto in linea di principio, quindi nel merito tu puoi sostenere quello che vuoi, ma che in linea di principio la politica, cioè il governo, cioè le autorità che noi democraticamente votiamo, discutano del principio di precauzione e prendano decisioni in tal senso, anche se sono sbagliate, mi sembra un principio elementare. Cioè, non stiamo dicendo che sono la Santa Inquisizione, non sono il Collegio Romano che chiude Galileo. Ma come mai tutti gli altri paesi avanzati sono, no? Ma te lo poni il problema? Di sono il Collegio, invece, il Cardinale Bellarmino e il retaggio di Galileo, di quelli che dicono a Galileo in ginocchio a Biura. Questo è avvenuto nella comunità scientifica italiana. Ma non gliene frega niente, non c'è nessuno. Non te ne frega niente, è un altro paio di maniche. No, per me è una cosa grave. Non ne frega niente a Martino o a Pecorato Scanio o a Alemanno di tappare la bocca ai ricercatori. Cioè, il principio di precauzione lo danno quell'interpretazione, forse seguendo un'idea di consenso che loro vogliono garantirsi. Tutto qua. Se costruisci il consenso all'idea che si può abbattere il principio di precauzione sulla sperimentazione degli OGM, magari vinci le elezioni e ottieni quello che vuoi tu. Tu è democrazia, no? Non è democrazia! Il fatto che la politica pretenda di esercitare il suo ruolo in ambiti nel quale la politica deve stare lontana. Il principio di precauzione ti sembra non spetti alla politica? Certo che non spetta il principio di precauzione, misurarlo su le sostanze, le modalità di semina, raccolta, coltivazione, immunizzazione dai virus o dai batteri delle piante. Ma è certo che non spetta alla politica, spetta alla ricerca scientifica, spetta a chi sa validare le procedure industriali. Non spetta alla politica, perché la politica può sapere e dire al ricercatore ti inibisco questo e quell'altro perché lo decido io? È il Cardinale Bellarmino, il panpoliticismo che confonde la politica con la teologia è pericoloso. Teologi, Paolo da Verona. Buongiorno Paolo. Buongiorno da Venezia comunque, un intervento veloce sulla questione di Amazon Piacenza. Sì. Anche per l'intervento telefonico che è stato fatto prima, dove sembra che gli utili debbano essere in qualche modo condivisi con i prestatori d'opera. Io sono un imprenditore, vorrei ricordare che io ho messo le firme sui castelletti in banca e nessuno dei miei dipendenti rischia nulla. Sia rapido, nulla. Solo per i tempi. E aggiungo questo, che se i dipendenti vogliono rischiare, devono cambiare mestiere. Se Amazon non rispetta gli accordi, intervenga all'USL e verifichi quali sono le condizioni di lavoro che ci sono presso Amazon, altrimenti sono solo pretesti per creare problemi. Però è quello che chiedono loro. Oscar, il pensiero del giorno qual è? Il pensiero del giorno è che l'Italia pubblica ci avevano detto che non ci davano i conti, ma stavano in attivo, invece continuano a perdere, eppure resterà pubblica perché gli abbiamo dato un prestito pubblico. E per di più, entra CDP anche in Ilva, lo Stato si prenderà il controllo anche di Ilva. Auguri, cari elettori, decidete bene che cosa volete votare, perché tanto sono tutti d'accordo anche su questo. A domani, ciao! Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Vi ha presentato 24 mattino.